Alzati poi da tavola. Le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale che teneva attaccata a un battente d'uscio, in venerazione del personaggio, e anche per poter dire a chiunque capitasse che non era somigliante, già che lui aveva potuto esaminar da vicino e con comodo il cardinale in persona in quella medesima stanza. «L'han voluto far lui con questa cosa qui», disse Agnese. «Nel vestito gli somiglia, ma...» «È vero che non somiglia», disse il sarto. «Lo dico sempre anch'io. Noi non ci ingannano, «Ma, se non altro, c'è sotto il suo nome. È una memoria». Don Abbondio faceva fretta. Il sarto si impegnò di trovare un baroccio che li conducesse a piè della salita. N'andò subito in cerca e poco dopo tornò a dire che arrivava. Si voltò poi a Don Abbondio e gli disse: «Signor curato, se mai desiderasse di portar lassù qualche libro per passare il tempo, da pover'uomo posso servirla, che anch'io mi diverto un po' a leggere. Cose non da par suo, libri in volgare, ma però...» «Grazie, grazie», rispose Don Abbondio. «Son circostanze che si ha appena testa ad occuparsi di quel che è di precetto». Mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti e si barattano saluti e buoni auguri, inviti e promesse di un'altra fermata al ritorno, il baroccio è arrivato davanti all'uscio di strada. Ci mettono le gerle, salgono su e principiano, con un po' più d'agio e di tranquillità d'animo, la seconda metà del viaggio. Alessandro Benvenuti ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.